Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. È uno schifo, è semplicemente uno schifo, e comunque c'è il comune qua vicino, ci sono le persone che comunque, voglio dire, si lamentano sempre in continuazione. Che dire, senza parole. A Napoli si stanno verificando tutta una serie di situazioni sospette finalizzate a destabilizzare una realtà che funziona. Guido Bertolaso insiste nel ribadire che se il capoluogo partenopeo sta ripiombando nell'emergenza rifiuti, lo si deve a comportamenti specifici che nulla hanno a che vedere con gli impianti per lo smaltimento della spazzatura. 3 anni sembrano davvero passati invano a Napoli, dove è riesplosa da giorni l'emergenza rifiuti. Il capoluogo partenopeo, messo in ginocchio da una parte dall'avvertenza dei lavoratori di Enerambiente, la ditta che procede alla raccolta per la SIA in alcuni quartieri della città, dall'altra dalla devastazione avvenuta ieri sera nell'autoparco della stessa azienda, dove una cinquantina di persone non ancora identificate sono entrate nella sede di Via De Roberto e hanno distrutto 46 compattatori, fra cui 4 auto e 3 furgoni. Un gesto che ha messo del tutto in ginocchio la raccolta dei rifiuti e costretto il questore a disporre la scorta per i pochi mezzi ancora funzionanti che nella notte hanno raccolto soltanto poche tonnellate di spazzatura. Sulla vicenda c'è un'indagine in corso, anche se i lavoratori respingono ogni accusa. Chi è stato non lo so, ci sono le persone competenti per questa cosa, però voglio solo dire ancora un'altra cosa: non siamo stati noi, la signora Ervolino deve sapere, il sindaco di Napoli, che non siamo stati noi operatori di Enel Ambiente a fare queste cose. Sull'altro fronte, quello della discarica di Terzigno, la situazione è sempre di alta tensione. Nella tarda serata ci sono stati trafferugli tra la polizia e i manifestanti che protestano per l'apertura di una seconda discarica. Un funzionario sarebbe rimasto ferito. Paolo Bicone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio 24, io sono Gigi Donelli e vi invito anche oggi a seguire il nostro appuntamento con la settimana raccontata attraverso le voci, i servizi, le interviste che la redazione news di Radio 24, i conduttori dei nostri programmi, i collaboratori della nostra emittente hanno raccolto inseguendo i fatti degli ultimi giorni e commentandoli con i protagonisti e naturalmente con tutti gli ascoltatori che sono intervenuti. Questa settimana partiamo dunque dalla cronaca, ma parliamo naturalmente anche di economia e banche, di politica, di occupazione. Ci tuffiamo letteralmente, anzi, nella politica, o almeno in quello che resta della politica. Punto e a capo. Siamo in vista della verifica di maggioranza della prossima settimana tra il 28 e il 30, nel cuore della settimana dunque al centro della politica. Segnatevi le date e ricordate di restare sintonizzati per ascoltare i fatti e i protagonisti. Ma intanto, per mettere ordine in questa complessità, diciamo nelle puntate precedenti, c'è il nostro Vincenzo Miglietta che vi fa il punto della situazione in 62 secondi netti. Servizi segreti chiamati in causa, accuse reciproche di irresponsabilità. Ad una settimana ormai dalla resa dei conti in Parlamento si allarga il solco tra Berlusconi e Fini. Ad alimentare le tensioni è ancora la vicenda della casa di Monte Carlo. Gli uomini vicini al presidente della Camera parlano di dossier preparati ad arte per screditare l'ex leader di AN, di cui la decisione di interrompere ogni dialogo con il PDL sulla giustizia. A replicare ai finiani è la stessa presidenza del Consiglio, che definisce di totale irresponsabilità chi diffonde voci di dossier e servizi segreti coinvolti. Linea questa ripresa dal PDL nelle parole di Cicchitto. L'aspetto mediatico-giudiziario che a questo punto richiede che Fini dia delle risposte a degli interrogativi abbastanza significativi che sono emersi. Non ci siano ombre sui servizi segreti, commenta il presidente del COPASIR D'Alema. La cosiddetta guerra dei numeri, infine, alla Camera. Suasbai lascia il gruppo di Future Libertà per tornare nel PDL. Da quest'ultimo escono Catone e Skanderbeg per confluire rispettivamente in FLI ed UDC. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Grazie Vincenzo. Cicchitto dunque parla di interrogativi abbastanza significativi. D'Alema dice giù le mani dai servizi, intanto i deputati si muovono da uno schieramento all'altro. Insomma, un colpo di scena dopo l'altro per tutta la settimana, fino ad arrivare ieri sera all'annuncio da una parte di Fini e alla conferenza stampa nella lontana ma non troppo isola dei Caraibi. Noi facciamo però un piccolo passo indietro e torniamo al dialogo interrotto. Alessandro Milan alle 8.30 del mattino, cominciando da Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia. Perché

poi il ministro magari non ha la minima idea se c'è la lettera o non c'è la lettera, cioè forse vabbè, l'ha scritta lui, l'ha firmata lui, comunque vabbè. Il counselor, ecco, allora il counselor, quello c'ha le carte anche lui, sì, no? Allora? Counselor? Allora dice che il counselor adesso è fuori a colazione, però ritorna forse fra una mezz'ora o un tre quarti d'ora. Tu però sei alle Nazioni Unite tra mezz'ora e tre quarti d'ora. Io sì, ci abbiamo Obama che adesso poi parla anche alla Clinton Initiative. Ed ecco l'ultima puntata. Ieri sera il presidente Gianfranco Fini ha annunciato "Dirò la verità in un video". E il presidente della Camera ha fatto capire che non parlerà solamente della casa di Monte Carlo, ma anche del linciaggio, per usare le parole dei suoi fedelissimi, a cui è sottoposto da mesi sulla vicenda. La dichiarazione è attesa online in tarda mattinata e sulla home di radio24.it trovate la strada digitale per il video. Punto e a capo. Bene, abbiamo parlato dei dissidi all'interno della maggioranza in vista di una settimana cruciale, ma non dimentichiamo che anche dalle parti del PD i mal di pancia abbondano. Veltroni in versione ribaltone, Franceschini si schiera con Bersani, poi scatta la tregua, ma c'è chi si chiede perché. Dario Ceccarelli ha un'idea in proposito. Il graffio. Finalmente, dopo il dibattito di ieri in direzione, adesso tra gli elettori del Partito Democratico è tutto chiaro. Questa nebbia in Valpadana è un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Nebbia in Valpadana. Politica ed economia, banche, fondazioni, poteri forti e vasi di coccio, da Tripoli a Verona. Insomma, un filo si snoda attraverso la settimana e ci regala una domanda per quella a venire. Chi sarà il successore di Alessandro Profumo alla guida di Unicredit? In attesa di una risposta, noi costruiamo attraverso i racconti e i servizi il racconto della settimana che è stata. Profumo lascia sfiduciato dagli azionisti, buonuscita record da 40 milioni di euro. Alla fine l'era del post Profumo è cominciata, ma solo dopo un ultimatum, la minaccia di sfiducia e dopo un'intera giornata di tensione. Una giornata finita a mezzanotte con Alessandro Profumo che firma le dimissioni, come chiesto a grande maggioranza dai consiglieri, e le deleghe che passano al presidente Dieter Rampol, punto di riferimento degli azionisti convinti della necessità del cambio di rotta. In piazza Cordusio quella di ieri è stata la giornata più lunga e più travagliata, quando alle 15 l'Audi grigia di Profumo è uscita dal garage, sembrava che il dado fosse del tutto tratto, sembrava certo che l'amministratore delegato, dopo una mattinata di trattative, avesse raggiunto un accordo di uscita per evitare la verifica finale nel consiglio straordinario. Si rincorrono voci di una lettera per i consiglieri che alla spicciolata arrivano. Debutta Farhat Bengdara, vicepresidente Unicredit, ma soprattutto governatore della Banca Centrale Libica, che insieme al Fondo Sovrano detiene oltre il 7%. È proprio sul caso dei libici e della loro crescita di capitale, ignota allo stesso presidente, che sono esplose tutte le tensioni tra i vertici dell'istituto fino al pressing per le dimissioni dell'AD. Nel CDA infatti Profumo ha chiesto e ottenuto che i consiglieri si esprimessero e lo hanno fatto ritirandogli la fiducia, con una decisione voluta fortemente dai tedeschi e dalle fondazioni. A lui è stata lasciata la possibilità di optare per una risoluzione consensuale con dimissioni entro mezzanotte, e così è stato. Profumo ha firmato il suo addio da Unicredit dopo 7 ore con l'avvocato Sergio Erete, ma poi dallo studio legale è tornato in piazza Cordusio, a questo punto ormai già da ex. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma noi torniamo alle voci e ripartiamo dal legame stretto e a volte non del tutto chiaro tra la banca e la politica, ma anche il ruolo dei comuni. Cominciamo a sentire Sergio Chiamparino, da Torino, a 24 Mattino. Io dico, questo è un tema sul quale il sindaco non ha nulla da dire, si pronunciano gli azionisti. Io mi pronuncio su ciò che può o deve fare la Fondazione CRT, perché ritengo di averne il diritto, ma su ciò che deve fare un credo si pronuncia al limite l'azionista CRT. E dopo il sindaco di Torino sentiamo quello di Verona. Il problema vero è che

fascia 15-24 anni che raggiunge il 27,9%. Si tratta del dato più alto dal 99. Oltre un giovane su quattro, quindi, in Italia è disoccupato. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Siamo a un livello di disoccupazione che è ben al di sotto della media europea, che è al 10%. Sappiamo che ciò è dovuto all'uso di strumenti come i contratti di solidarietà e le varie forme di cassa integrazione. Prosegue inoltre la riduzione degli occupati italiani, giù di 195.000 unità in un anno, mentre ci sono oltre 170.000 stranieri occupati in più. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quando si dice che nella crisi siamo andati meglio di altri paesi, non è vero, siamo stati fortemente colpiti. Lo ha detto ieri la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Dalle 17 lo avete sentito a Focus Economia. A noi non interessano i conflitti personali della politica, i problemi di cui sentiamo parlare, vediamo pieni giornali. Noi vogliamo che la politica si concentri sulla crescita e sull'occupazione. Lo continueremo a dire, non siamo sciocchi, sappiamo che viviamo un momento di grande incertezza politica, di grande instabilità politica, ma la competizione, i problemi dell'occupazione non attendono i risultati dei passaggi di parlamentari da una parte all'altra, i problemi della crescita, dell'occupazione, della competizione globale richiedono risposte immediate, vere concentrazione su questi problemi. Cambiamo scenario, lasciamo la politica, l'economia italiana, ci spostiamo a New York, dove Obama è intervenuto nelle giornate delle sessioni plenarie delle Nazioni Unite. When we come back here next year, we can have an agreement that will lead to a new member of the United Nations, an independent, sovereign state of Palestine. Living in peace with Israel. Da New York, Mario Platero, le riunioni delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prosegue. Ha parlato Barack Obama con una promessa. Avete sentito in questa sua dichiarazione davanti a circa 150-155 capi di Stato e di Governo raccolti nel Palazzo di Vetro, una promessa, forse dovremmo dire un auspicio, quello cioè che l'anno prossimo ci sia un nuovo membro delle Nazioni Unite. E chi è questo nuovo membro? La Palestina. Obama ha dedicato gran parte del suo discorso allo sforzo per la pace in Medio Oriente, la piattaforma su cui si potranno risolvere una gran quantità di altri problemi, l'emancipazione dell'Iraq verso una democrazia matura, una stabilizzazione dell'Afghanistan, verso persino un recupero delle responsabilità di un paese come l'Iran. E dunque Obama ha chiesto agli israeliani di confermare il congelamento degli insediamenti che scadrà questo fine settimana, si è impegnato a portare avanti fino in fondo questo negoziato nei prossimi mesi, dando l'idea che questo potrebbe essere l'anno decisivo. Now let me be clear once more. The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran. And the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through it. But the Iranian government must demonstrate a clear and credible commitment and confirm to the world the peaceful intent of its nuclear program. Secondo capitolo, Iran. Qui Barack Obama tende la mano a Teheran. America 24 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in onda alle 13.45 con Mario Platero. E dagli Stati Uniti, prima di ritornare alla cronaca, un'altra pagina internazionale che ci porta in Grecia con il punto curato da Sergio Nava. Non c'è pace per la Grecia, ancora nel pieno delle proteste legate alle riforme strutturali messe in pista dall'esecutivo Papandreou per risollevare il paese in piena crisi economica. Per il settimo giorno consecutivo prosegue la protesta di quasi 1.000 autotrasportatori che assediano Atene e Salonicco, bloccando le principali arterie di ingresso. La tensione è ai massimi in vista del voto cruciale del Parlamento che si pronuncerà sul pacchetto di liberalizzazione del settore. Per i camionisti sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Al momento non sono ancora segnalati grossi problemi nei riforme

sì 65%, no 35%. Venerdì 24 settembre, Casa di Monte Carlo. I finiani accusano Il Giornale e Libero di killeraggio politico. Secondo voi hanno ragione? 61% sì, 39% no. Punto e a capo. Ultimi minuti insieme per questo appuntamento con Punto e a capo. Ancora un saluto da Gigi Donelli, oggi in regia Pietro Lacorte. Siamo arrivati verso la conclusione e parliamo di salute, di sanità e dei temi che vengono trattati durante la settimana nell'appuntamento delle 11 con Nicoletta Carbone. Cuore, tradimento e calo del desiderio, la sequenza dei temi della settimana, sempre con il prezioso contributo dei nostri ascoltatori. Abbiamo Paolo, ci chiama da Como. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Avevo sentito la dottoressa che diceva appunto che alcune donne si spaventano un po' raggiunta una certa età. Difatti io con mia moglie, visto che sottili provocazioni così, diceva, ma ormai te, è 31 anni che sono sposato, e gli ho detto, guarda che io, nonostante che stia impegnato 15-16 ore al giorno per lavoro e varie cose, ho detto, guarda che io vengo a casa, ho voglia di fare l'amore con te, se vuoi lo facciamo tutte le sere. E lei? Dice, no. Voglio proprio vedere se è capace. E difatti così, per una settimana siamo andati avanti così, tutte le sere, tranquilli, senza nessuna prevaricazione assolutamente, no? Con successo. Sì. E difatti, e così è successo. Beh, dopo di allora, quasi zero. Si è spaventata, non c'è, praticamente troppo. Non si sentiva. Però dopo quella settimana, non 9 settimane e mezzo, ma una settimana, dottor Rossi. La mia impressione è che... Cosa può essere successo? Il gioco, perché la cosa era nata come un gioco. Allora, il gioco aveva sicuramente acceso le fantasie anche nella moglie del nostro ascoltatore, però poi era diventato un lavoro, perché era diventata una sfida. Bisognava dimostrare che erano capaci di andare avanti a fare l'amore tutti i giorni. E questo gioco, questa cosa che non era più un gioco, ma era diventato un dovere, un assolvere, una sorta di scommessa, diciamo, giocosa nella coppia, ha fatto calare il desiderio nella donna. Punto e a capo. Addii e nuovi saluti, grandi della TV e della musica, ma anche ritorni e nuovi incontri. Controcopertina. Come se un amore così grande non potesse essere diviso dalla morte. Un amore immenso, ma sempre senza smancerie. Simone, ma non ti ricordi Marilyn Monroe? Come era sexy con quel ventilatore che le sollevava le sottane? Quella era Marilyn Monroe, però. Sandra Mondaini era già famosa quando conobbe Raimondo Vianello. Aveva 27 anni, eppure amava dire, ho cominciato a vivere da quel giorno. Ma ti ha fatto mai una bella dichiarazione d'amore? Oh, ma va là. È ancora tanto se mi saluta al mattino. Un saluto, sì. Passando, la saluto. Dai. Prima una vita in bianco e nero sulla Rai, poi a colori su Mediaset. Ora non ci resta che immaginarli sereni insieme e guardandoci tristi non potrebbero che ripetere. Che noia. Che barba, che noia. Si sono ritrovati durante un concerto in memoria di Demetrio Stratos e hanno deciso di suonare di nuovo insieme dopo 30 anni. Almeno per questa sera al Blue Note di Milano, in futuro chissà. Ares Tavolazzi, Paolo Tofani e Patrizio Fariselli. Tornano gli Area. Patrizio Fariselli. C'è chi si chiede perché rifate gli Area? Allora io rispondo sempre, noi non stiamo rifacendo niente. Noi siamo gli Area. Non cerchiamo di rifare il verso a noi stessi, da giovani, come tante vecchie glorie purtroppo ogni tanto fanno. Sì, noi qualcosa andiamo a spizzicare del vecchio repertorio, perché è una curiosità che viene da lontano, anche perché io per esempio ho fatto un lavoro per piano solo sul vecchio repertorio Aria nel 2005, ma non è quello lì, anche perché se andiamo a pescare nel vecchio repertorio, andiamo a pescare le cose meno famose, meno conosciute e le trattiamo in una maniera sconvolgendole, capisci, in modo come ci piace fare adesso che siamo dei sessantenni scalmanati. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora siamo davvero all'ultima tappa sonora della nostra mattinata, una sorta di mini pagina sportiva, mini ma intensa, di calcio, si fa per dire. Il pallone per Song, il cross, e gol della Corea. Il golden goal che ci buttò fuori dai mondiali nippo-coreani, quel 18 giugno del 2002 a Daejeon, lo segnò appunto il coreano Han. Ma al KO dell'Italia di Trapattoni una bella mano la diede proprio lui, Byron Moreno, l'ineffabile arbitro ecuadoriano che espulse Totti e annullò un gol regolare a Tommasi. Così, in esclusiva a Radio 24, Moreno si confessò il giorno dopo la sfida. Per il comitato arbitrale della FIFA è tutto ok. Oggi mi hanno fatto le congratulazioni per come ho fatto il mio lavoro nella partita di ieri sera. Insomma, che qualcosa non filasse proprio per il verso giusto lo cominciamo a sospettare da subito, perplessità confermate poi da alcune comparsate TV anche alla Rai negli anni successivi, e che qualcosa non tornasse l'hanno pensato anche i poliziotti dell'aeroporto JFK di New York quando ieri hanno pizzicato l'ex arbitro, oggi 41enne, con 6, dicasi 6 kg di eroina nascosti tra pantaloni e mutande. Inevitabile l'arresto e, per Moreno, quel cartellino rosso che già avrebbe meritato quel pomeriggio a Daejeon. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo sport, quello vero, quello giocato, lo ritrovate da questo pomeriggio con Carlo Genta in onda alle 17. Naturalmente l'appuntamento anche di domani con A Tempo di Sport della domenica. Noi abbiamo concluso, vi lascio all'appuntamento con L'Altra Europa condotto da Federico Taddia. Vi ricordo solamente www.radio24.it per sentire e risentire questo e tutti i programmi di Radio 24. Buon fine settimana.